Noi siamo i froci, siamo gli ebrei, palestinesi dell'intifada, siamo barboni lungo la strada, siamo le zecche comuniste, noi siamo anarchici, noi siamo spastici. Onde corte, un giro nell'Europa del sociale. Sporchi ma buoni, che tendenza in te si significa coglioni. Noi siamo i negri meridionali, siamo gli autonomi dei... Bentornati all'ascolto di Onde corte, un giro nell'Europa del sociale. Questa settimana abbiamo il piacere di avere ospite Carlotta Besozzi, direttrice dello European Disability Forum. Benvenuta a Radio Alma, Carlotta, bentornata dovrei dire, perché sei già stata ospite lo scorso giugno quando parlavamo di elezioni europee. Sì, grazie, è un piacere appunto ritornare. È un piacere anche nostro. Ecco Carlotta, la scorsa settimana l'Unione Europea ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e lo European Disability Forum ha parlato di data storica. Perché? Cosa ha di storico questa ratifica? Sì, è importante per vari livelli. Prima di tutto perché c'è un riconoscimento da parte dell'Unione Europea dell'importanza dei diritti umani delle persone con disabilità. Tra l'altro è il primo trattato dei diritti umani a cui accede l'Unione Europea prima ancora sulla Convenzione sui diritti umani del Consiglio d'Europa di cui si parla nel Trattato di Lisbona, quindi e prima ancora di altre convenzioni come la Convenzione sui diritti del fanciullo di cui si è celebrata recentemente i 20 anni di esistenza. Quindi è importantissimo da questo punto di vista. Anche il primo trattato che l'Unione Europea ratifica proprio come Unione Europea e non prima di alcuni dei suoi stati membri proprio. Sì, diciamo che ci sono già 12 stati membri che hanno ratificato e l'Unione Europea arriva adesso, diciamo la decisione è Comunità Europea, però dal 1° dicembre sarà comunque l'Unione Europea perché è l'Unione Europea che avrà personalità giuridica ed è proprio importante perché apre tra l'altro la pista alla ratifica anche di altre convenzioni, tra cui quelle sui diritti della donna o i diritti del fanciullo, e poi la convenzione stessa obbligherà anche l'Unione, perché ha dei dispositivi al suo interno per cui che si applicano anche all'Unione Europea, non solo ai suoi stati membri, quindi per esempio quello di istituire un organo di coordinamento interno per la messa in opera dei diritti previsti dalla Convenzione, anche un organo indipendente che dovrà seguire la messa in opera. Ci sono anche le tre istituzioni maggiori come la Commissione, il Parlamento e il Consiglio che dovranno anche applicarla al proprio interno, quindi finalmente magari possiamo sperare delle istituzioni un po' più accessibili alle persone con disabilità, più persone con disabilità che lavorano anche nelle istituzioni, questo solo per dare degli esempi. Voi dell'EDF però avete espresso anche qualche perplessità o comunque chiedete che siano fatti ulteriori passi avanti, non vi basta la ratifica della convenzione? Sì, sì, prima di tutto la prima preoccupazione è stata che sappiamo che ci sono alcune procedure che devono essere applicate prima che questa ratifica diventi effettiva presso le Nazioni Unite e questo era appunto le discussioni che abbiamo avuto con la presidenza svedese. E poi diciamo che oggi un comunicato stampa della Commissione invece ci ha preoccupato molto, perché in questo comunicato la Commissione ha detto che aspetterà la ratifica dell'ultimo Stato membro prima di accedere alla Convenzione e depositare appunto gli strumenti di ratifica presso le Nazioni Unite. Quindi questo non riusciamo a capire proprio perché ci sono dei precedenti di altri accordi internazionali per cui non è assolutamente necessario che la Commissione aspetti l'ultimo, basta uno Stato oltre alla comunità europea per la ratifica. E quindi questo è molto preoccupante, perché da un lato si riconoscono i diritti, c'è un impegno, ma poi si dice beh, aspettiamo all'ultimo momento prima che ci tocchi, insomma. La ratifica della convenzione è giunta comunque alla vigilia del Giorno Internazionale delle Persone con Disabilità, il 3 dicembre, di una conferenza che ci sarà qui a Bruxelles, che quest'anno affronta in particolare il tema della vita indipendente. Qual è il legame fra i due avvenimenti e qual è l'importanza di questa conferenza a maggior ragione quest'anno? Il Giorno Internazionale delle Persone con Disabilità non è solo quest'anno, diciamo che il 3 dicembre è stato eletto come giorno internazionale da diversi anni, però quest'anno cade in un momento particolare. Sì, sicuramente cade in un momento particolare. Il tema è anche un tema importante, uno degli articoli anche più importanti della Convenzione, quello sulla vita, sul diritto alla vita indipendente e alla vita nella comunità, e perché tocca molti degli aspetti legati ai diritti. Prima di tutto il fatto che comunque anche in Europa esistono, si parla in alcuni rapporti di 200.000 persone, altri parlano di un numero maggiore, ma comunque di persone con disabilità che vivono, si può dire, recluse in istituti senza un minimo di vita privata o di possibilità di scelta sulla propria vita, magari alcuni anche con rischi di abusi, con magari una forti, per quanto riguarda, non so, anche quelli che accolgono le persone con, diciamo, quelle che vengono definite malattie mentali, forti dosi medicinali e cose di questo tipo. Quindi il ricordare, mettere a tema che comunque si devono cambiare queste politiche, si deve andare verso una politica di servizi a domicilio nella comunità per le persone con disabilità è fondamentale. E poi la giornata tocca anche altri temi oltre a quello dei servizi, e anche quello, per esempio, di altre condizioni, come quello, il diritto diciamo un salario minimo, che l'accesso alle nuove tecnologie, l'accesso alle nuove tecnologie, e anche l'accesso a tutti gli ausili tecnici che possono essere più banali, come, non so, una sedia a rotelle, o altri, appunto, ausili più tecnologici, che però spesso sono difficili da ottenere, sono carissimi, c'è anche un carissimi in modo ingiustificato, quindi si cerca anche di capire se c'è modo per creare un po' più un mercato di questi ausili, perché i prezzi possano scendere, perché il consumatore abbia più scelta e perché anche si possa assicurare che molti di questi ausili siano un po' più integrati nelle tecnologie anche più recenti, in modo che uno non si debba accollare doppi costi, per esempio l'acquisto di un computer, l'acquisto di un software che permetta di avere una trasmissione dello schermo, per esempio. Esatto, esatto, esatto. In conclusione, un flash. Questa settimana, anzi la scorsa settimana, Barroso ha nominato i nuovi commissari, abbiamo un nuovo Parlamento, abbiamo il Trattato di Lisbona, abbiamo questa Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Nei prossimi anni sei ottimista per quanto riguarda i progressi che il movimento delle persone disabili può fare e per quanto riguarda i progressi che le politiche all'interno dell'Unione Europea, delle politiche all'interno dell'Unione Europea, oppure c'è più la preoccupazione? Ma ci sono tantissime opportunità, come hai detto il trattato offre molte opportunità, per esempio c'è anche una clausola di non discriminazione per le persone con disabilità, che si deve applicare orizzontalmente a tutte le politiche. C'è il nuovo commissario sui diritti fondamentali, tra l'altro la persona che è stata scelta è sicuramente una persona di grande forza, che già si è espressa, Viviane Reding, che già si è espressa, ricordiamo, in favore anche di un maggiore accesso alle informazioni delle persone con disabilità. Infatti, quindi tutto questo dà buone prospettive. L'importante però è che non sia per esempio un posto di facciata, ma che le sia dato adeguato, insomma speriamo che sotto di lei possa veramente avere dello staff che lavora sulla disabilità, perché per ora si tratta di mantenere, insomma avere questa relazione un po' ambigua che la DG Occupazione gestirebbe del personale sulla disabilità sotto il suo controllo. È un po' difficile immaginare che un commissario possa controllare gente che lavora sotto un direttore generale, sotto un altro commissario. Insomma, questo speriamo che il Parlamento lo contesti questo durante le audizioni, e che separiamo un po', cioè abbiamo sempre la DG Occupazione che lavora sempre sulla disabilità nell'ambito del sociale, e poi il nuovo commissario che lavorerà sulla disabilità in quanto diritto fondamentale. E quindi per fare un vero mainstreaming. Noi ringraziamo Carlotta Besozzi, facciamo un in bocca al lupo per la conferenza, per la convenzione e per i passi avanti che il movimento delle persone con disabilità speriamo possano fare nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Sì, grazie mille e una prossima volta. Sì, agli ascoltatori di Onde Corte diamo appuntamento per la prossima settimana. Avete ascoltato Onde Corte, un giro nell'Europa del sociale. More on the job.